agilmente, qua produciamo scalette. Lavoro come... agile, che forse è un po' più facile. Come si fa? Vabbè, è successo a noi quando ci hanno chiesto di fare Cuore e Denari. E noi cosa abbiamo era, dovuto era un bel fare? Cambiamento. Noi abbiamo dovuto... Ci siamo rimboccate le maniche e l'abbiamo fatto. Che fatica si fa a cambiare vita. Com'era? O mangi la finestra? No, com'è? Mangi la minestra? No, non ce l'hanno messa proprio così, però... Insomma... Possiamo selezionare anche dei casi concreti? Proprio per... apposta. Noi siamo qua apposta. Che fatica si fa a cambiare vita. Cuore e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ho raccontato la mia storia, ora mi fermerò un po', metto il passato in memoria, il mio futuro vivrò. Essere o sentirsi anziani, questo è il dilemma. Ma secondo voi, quando una persona può definirsi anziana e chi sono gli anziani di oggi? 800 24 00 24, intanto chiamate il nostro numero verde, provate a raccontarci che cosa secondo voi segna il passaggio dall'età adulta all'età anziana: gli anni, la pensione, gli acciacchi, il calo della voglia di fare, di progettare. Qual è la vostra esperienza a riguardo? Una cosa è certa: non ci sono più gli anziani di una volta, il sessantenne di oggi è ben diverso da quello di 30 anni fa, voi che ne dite? Ma se i 60 anni sono per voi ancora molto lontani, diteci come vi preparate ad affrontarli, come vi immaginate tra 20-30 anni. Chiamateci però anche per avere consigli per non farvi schiacciare dal peso degli anni, anche se sono pochi, lo sappiamo, si possono far sentire sulle nostre spalle, sulla nostra schiena, rendere il nostro collo rigido e dolente. 800 24 00 24, iniziate a prenotare i vostri interventi. Abbiamo parlato anche al Salone del Risparmio, ti ricordi, immaginando il nostro io futuro, e oggi ci ritorniamo su questi argomenti nella pagina di Denari. A partire dalle 11.45 penseremo a questa età della vita e vi chiediamo di condividere i vostri dubbi e le vostre domande, sia in merito alla vostra esperienza che a quella di chi vi è vicino. Genitori, familiari, progetti per voi stessi o per quando la cosiddetta terza età arriverà. Noi oggi faremo un piccolo focus sul prestito vitalizio ipotecario, una particolare tipologia di finanziamento destinato agli over 65 proprietari di un immobile residenziale, che proprio impegnando questo immobile gli anziani possono disporre di una liquidità immediata senza chiedere prestiti di altro tipo e senza pesare sui figli o altri familiari. Anzi, questa liquidità spesso serve proprio per un aiuto agli altri familiari. Voi cosa ne pensate? Quello che è importante è che c'è una nuova legge che dal 19 marzo definisce tutto il funzionamento di questo strumento in maniera particolarmente stringente, proprio perché naturalmente gli anziani vanno tutelati. 800 24 00 24, anche su questo argomento iniziate a prenotare i vostri interventi. Quando sarò vecchio, nessuno dovrà più venirmi a rompere i coglioni. Siamo uno dei paesi che invecchiano di più al mondo insieme al Giappone. Se ancora all'inizio del secolo scorso meno di una persona su 10 arrivava a superare gli 80, all'inizio del secolo in corso tale meta è diventata per la prima volta nella storia dell'umanità un'impresa alla portata dei più, realizzata infatti da più della metà degli uomini e da oltre 2/3 delle donne. Noi, Deborah, viviamo più a lungo. Sì. Insomma, siamo testimoni di un grande cambiamento che è stato fotografato fotografato ed analizzato da una ricerca dell'Università Cattolica di Milano. Ed in linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Fausto Colombo, ordinario di teoria della comunicazione dei media, direttore del Dipartimento di Scienza della Comunicazione dello Spettacolo e curatore della ricerca Non mi ritiro. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Intanto voglio dirle che in redazione, intanto che dicevo avrò il professor Colombo, molte ragazze della redazione mi hanno detto: wow, è bravissimo, amatissimo, il clan dei colombiani, come dicono i miei colleghi. Vede, vede, ecco. Esattamente. Sì. Fantastico, mi hanno detto. Sì. E allora noi ci siamo un po' pavoneggiate, vero Deborah? A proposito di colombiani, da oggi apparteniamo, ecco, anche noi a questo clan. Ottimo. Professore, in meno di un secolo, e questa è una buona notizia, la speranza di vita è aumentata di circa 30 anni, un arco di tempo insomma consistente che si è aggiunto tra la maturità e l'estrema vecchiaia e che rappresenta una novità assoluta e che la vostra ricerca ha voluto proprio indagare e misurare. Sì, esatto, è come se una volta c'erano tre età della vita, adesso ce ne sono quattro. La quarta è l'età propriamente anziana e la terza, che noi abbiamo cercato di fotografare prendendo in atto, diciamo, gli anziani fra i 65 e i 74 anni, è un'età ancora pienamente attiva. C'è anche chi parla di active aging, cioè di anziani attivi che sono ancora pienamente inseriti nella società, ancora molto produttivi e capaci di agire, di prendersi cura o anche di occuparsi di sé, insomma, poi dipende ovviamente dai caratteri, eccetera. La vita si è allungata e le nostre anche pensare il nostro futuro è un'attività che facciamo più a lungo. Abbiamo una speranza di vita molto più lunga e quindi in un'età in cui in altri tempi si sarebbe pensato al futuro soltanto dei figli o dei nipoti, si pensa anche invece al nostro. Questa è una buona notizia, ci piace, insomma bisogna giocarceli quegli anni. Tra l'altro professore, la vostra ricerca, che ha analizzato un campione di 900 soggetti residenti in 20 regioni italiane, ha messo proprio a fuoco l'identikit di questi giovani anziani, ossia di quelle persone che hanno un'età compresa, come ha detto, tra i 65 e i 74 anni, che hanno una vita particolarmente attiva. Che cosa ne è emerso? Ma dunque, innanzitutto che molti di loro, la maggior parte, anche se diciamo o sono in pensione, ma anche se sono in pensione, continuano a essere attivi, lavorano spesso, continuano a lavorare, si occupano. Sono una generazione sandwich, quindi continuano a occuparsi dei loro figli, qualche volta dei loro nipoti, ma anche dei loro genitori, che sono spesso vivi. Sono attivi nel senso che si occupano di quello che succede nel mondo, per esempio utilizzando anche non solo i giornali letti tradizionalmente, i media tradizionali, ma anche in una piccola quota anche internet e così via. Sono attivi nel volontariato. Molto spesso, molto più di quanto non si possa immaginare. Fare del bene all'altro aiuta a stare bene, questo, no? Ci sono fiori di ricerche che lo dimostrano. Guarda, professore, chi sta bene di questi giovani anziani si accorge che stanno meglio quelli che continuano ad avere un'attività, si occupano degli altri, ovviamente fanno attività fisica, si tengono in contatto col mondo. Più ci si isola, peggio si sta, ma forse non c'era bisogno della nostra ricerca per dirlo, però è una conferma, cioè più si ha voglia di vivere, meglio si vive. Ecco. Ai nostri ascoltatori abbiamo chiesto all'800240024 qual è quella cosa, qual è il segnale che fa passare dall'età adulta all'età anziana. Ci stanno scrivendo e chiamando in molti, tra poco sentiremo naturalmente le loro testimonianze. Intanto Igino mi ha scritto subito che si diventa anziani quando smettiamo di correre, lui ne ha 65 e ancora corre. Professore, da quanto lei ci dice, mi sembra che a questo punto le soglie anagrafiche di entrata in età anziana siano sostanzialmente inadeguate, vadano cambiate, anche se questo è un cambiamento che richiederà tempo e anche fatica. Sì, questo è un lato molto importante, perché è innanzitutto la cosa più vera, cioè noi diciamo che siamo una società anziana, perché prospetticamente certo la percentuale di persone, virgolette, anziane sta crescendo in modo molto consistente. Il problema vero è che però continuiamo a considerare anziane delle persone che non lo sono ancora, perché sono semplicemente degli adulti che vivono più a lungo la loro condizione adulta. E questo ha tutta una serie di conseguenze a volerci fare delle politiche. Per esempio, una bella questione sarebbe come fare in modo che la disponibilità di queste persone che sono ancora attive e produttive, come fare in modo che queste persone siano utili, possano trasferire la loro voglia di fare e le loro capacità ai più giovani. Quindi diventino proprio una risorsa. Per occupare i posti dei giovani, esatto, questo è molto importante. E credo che questo c'è un colombiano che la cerca, professor Colombo. Guardi, che ho sentito, ma non ci sono posti, non ci sono posti. Abbiamo sentito, non suonino i telefoni stamattina, non ce n'è per nessuno, solo per noi. Quindi, anche i nostri suonano, però. Anche i nostri suonano, e quindi sarebbe carino chiedere anche ai nostri ascoltatori di dare il loro contributo, la loro idea, no? Un loro spunto per trasformare questi giovani anziani veramente in una risorsa. Esatto. E allora è vero che è bella la risposta, finché si corre. Intanto perché corro anch'io ed è, eccolo lì. Ma anche si corre in senso metaforico, cioè si corre per gli altri, si corre per costruire, e questo è terribilmente importante perché ci aiuta a restare vivi, ma anche trasferisce parte della nostra vita e della nostra voglia di vivere agli altri. Sentiamo, professor Colombo, sentiamo Gabriella della provincia di Livorno. Intanto anticipiamo che adesso abbiamo capito che gli anziani giovani sono assolutamente attivi, non sentono il peso delle loro primavere. Dopo noi parleremo invece di chi, nonostante le poche primavere, sente un po' il peso degli anni, e parleremo di tutti quei dolori, acciacchi, dolorini che ci fanno dire sono tutto rotto, ma saranno gli anni. Gabriella, buongiorno. Buongiorno. È una generazione sandwich lei, Gabriella? Come sono? Una generazione sandwich, come l'abbiamo chiamata prima? No, io in un momento ero staccato il telefono in galleria, non si preoccupi, per cui non ho potuto sentire. Ci ritorniamo dopo. Io sono una di quelle persone che pochi giorni fa, il 18 di questo mese, ho compiuto 68 anni. Sì. E mi sto domandando ancora cosa farò quando sarò vecchia, quando sarò anziana, perché io sto facendo una vita molto più impegnata di quando andavo anche al lavoro, perché ho sempre tanto impegnato, sono presidente di un'associazione. Gabriella, la stiamo perdendo, però Gabriella è proprio messaggio, no? Chiave la persona che descritta dal professor Colombo. Eh sì, direi di sì. C'è una, se posso citare un Nazim Hikmet, un grande poeta del passato, ma del passato recente, che dice: pianta un ulivo quando avrai 70 anni, non per i tuoi nipoti, ma per dire grazie, sono vivo. E è quello che questa generazione fa. Solo che lo pianta insieme per i suoi nipoti e per se stessa. Insomma, essere vivi così a lungo comporta, diciamo, delle responsabilità che queste persone portano con una certa qual leggerezza. Certo, quelle che stanno bene, quelle che hanno la possibilità di farlo, non è per tutti così, se no facciamo la famosa statistica dei due polli, ma quelli che hanno la possibilità lo fanno con enorme entusiasmo. E non credo che questo comporti portare via posto a qualcun altro, comporta la disponibilità di risorse e di energie che devono ricadere a vantaggio della società tutta intera. Un ascoltatore, Carlo da Bergamo, ci scrive, forse con un po' di invidia, che sua mamma, 82 anni, è appena ripartita per New York e Washington. Quindi questi anziani, direi che 82 anni è già passato, non è proprio, non si può considerare giovane anziana a questo punto, professor Colombo, no? Perché sopra, certo, gli 80. Poi figuriamoci, però, vorrei citare, se è lecito, interesse privato in atto pubblico, vorrei citare il caso di mia madre, che è l'amministratrice del gruppo WhatsApp della nostra famiglia. L'età è più o meno quella, insomma. Quindi. Professor Colombo, qual è il risultato della ricerca che l'ha sorpresa di più, quello che non si sarebbe aspettato? Allora, la cosa che più mi ha sorpreso, nonostante che da tutta la vita mi occupi di tecnologie digitali, è stato scoprire che molti, fra gli anziani, non moltissimi, un 20% che usano le tecnologie digitali, alcuni sono passati direttamente al tablet e allo smartphone senza passare dal computer. Questo mi ha colpito molto, si chiama salto della rana. Salto della rana, generazione sandwich, il salto della rana, li incidiamo sulla cioè pietra. Quando, diciamo, quando per arrivare alle ultime tecnologie non bisogna per forza ricostruire tutto, non bisogna partire dal Commodore 64 perché si è rimasti indietro, ecco, si può arrivare direttamente a questo. Vede, questo è un messaggio anche per me, vede, per noi. Che io sono rimasta al BlackBerry, non le dico l'avvento dello smartphone nella vita di Nicoletta, che è tutto un programma in questi giorni, professor Colombo, qua dobbiamo leggere molto dettagliatamente come si fa questo salto della rana. Grazie professor Colombo, torneremo a parlare di questa ricerca molto interessante, non mi ritiro, già il titolo ci è piaciuto molto, e parleremo anche di tecnologie per anziani e non. Professor Colombo, grazie, la lasciamo con i suoi colombiani. Buona giornata a tutti. Anche a lei. Adriano, buongiorno da Vicenza. Buongiorno. Ma buongiorno. Oggi compio 70 bellissimi anni. Pianti un albero. Pianti un olivo. per sé. È il più grande parlare con voi due, che siete meravigliose. Avete una voce splendida di come vi guarda, è una cosa fantastica. Qua la libreria veramente sta proprio già. Noi dobbiamo fare un regalo, dobbiamo mandargli una maglietta di Radio 24 ad Adriano. Guarda, tanti gadget. Ce l'hai volentieri, perché io sono in macchina, sto andando a comprarmi delle cose per lavorare a casa mia. Sì. Io lavoro ancora oggi e faccio istruttore di scuole guida. Grandissimo. Adriano, allora dalla nostra redazione le chiederanno qualche dato in modo che vogliamo farle arrivare un regalo per il suo compleanno, che ha festeggiato un po' con noi. Posso, mi permette di dire una cosa, perché si vive bene a 70 anni? Sì. Posso dire un consiglio per tutti? Io canto in due cori, sono un corista. E cantare in un coro o qualsiasi cosa è una cosa meravigliosa e mantiene molto giovani, perché cantare significa impegnare il pensiero, la voce, il corpo, la memoria, lo studio, la passione. È una cosa bellissima. Io la consiglio a tutte le persone anziane che trovano un coro anche nella loro parrocchia. È una cosa bellissima, questo io voglio dire come messaggio ai miei coetanei. Grazie Adriano, mettiamo il suo messaggio naturalmente sulla nostra pagina. Certo. Vogliamo raccogliere tutta una serie di indicazioni e di consigli, un po' come avevamo fatto con la felicità, ti ricordi Deborah? Insomma, e quindi iniziamo a scrivere quella di Adriano. Certo. Aspettiamo naturalmente le vostre, potete scrivercele al 349-238-6666, potete raggiungerci attraverso il nostro sito o chiamare il nostro numero verde. E intanto noi salutiamo il prossimo ospite, che non ci toglierà gli anni. Buongiorno, ma al professor, al dottor Respizzi. Buongiorno. Buongiorno. Come sta lei? Bene, bene, molto bene, grazie. Con lei noi vorremmo parlare di tutti quegli acciacchi che noi avvertiamo, quelle sensazioni magari che abbiamo quando il corpo non ci segue, si lamenta, perde il ritmo. Quelle cose un po' noiose. Ecco, quando noi vorremmo fare ma il corpo si rifiuta, ed ecco allora ci sentiamo un po' dei catorci, come dite voi, no? Un rudere, no? Quando ci alziamo e ci sentiamo la schiena dolente, ingessata, rigida, oppure quando alla fine della giornata di lavoro avvertiamo quel peso tra capo e collo che rende anche il più piccolo movimento doloroso, oppure quando ci arriva il colpo della strega. Allora, dottor Respizzi, siamo pronti a lamentarci un po', no? Con lei, ma lei di quale informazioni ha bisogno per darci una mano? Sostanzialmente di capire se questo tipo di sensazione è solo mattutina, se c'è durante il giorno, se c'è di notte. È molto importante il momento in cui questi sintomi si fanno vivi, e poi spiegheremo esattamente anche perché, insomma. Però già intanto per gli ascoltatori, immaginare in quale momento della giornata compare questa fastidio. Quindi al mattino, dopo un movimento, quando siete a riposo, ma intanto se noi dovessimo lamentarci un po' di tutti quei dolorini che ci accompagnano da quando ci svegliamo a quando torniamo a letto, faremo notte. Noi in realtà non abbiamo molto tempo, fin da adesso fino alle 11.45 ci occuperemo del nostro corpo, ma dottor Respizzi, insomma, definiamo bene il campo. Di che cosa ci occupiamo oggi? Stiamo parlando di quelle che noi chiamiamo le patologie benigne della colonna e delle spalle, della colonna cervicale, dorsale e delle spalle. Già sì. Il fatto che siano benigne è un fatto favorevole. Questo già ci piace, ecco, quindi collo, spalle. Spalle e dorso. In mezzo alle scapole, spesso ci sono questi dolori localizzati in mezzo alle scapole. In mezzo alle alucce. Esatto. 800 24 00 24, iniziate a chiamarci il dottor Respizzi. Il dolore non ce lo può togliere, ma sicuramente ci può indicare quale potrebbe essere la causa e soprattutto ci aiuta a fare prevenzione, perché no? La prevenzione prevenire sempre paga. È sempre meglio che curare. Cuore e denari. Saremo hacker dei nostri PC, campioni di boccia con Nintendo Wii, vetrina del salotto senza porcellana, ma con il bambolotto di Tony Montana. Sai che ridere se la mia generazione arriverà all'età della pensione con jeans e tic. E chissà come saranno nei prossimi decenni le nuove generazioni di anziani. Abbiamo già captato qualcosa di interessante sulle nuove tendenze anche della prima parte della trasmissione. Ne stiamo parlando questa mattina, sicuramente ogni epoca vede dei cambiamenti anche nei suoi nonni. Sappiamo oggi quanto gli over 60 e 65 siano importanti per sostenere le proprie famiglie alle prese con la crisi e li abbiamo ribattezzati questa mattina appartenenti alla generazione sandwich. Quanto la loro pensione spesso è un supporto essenziale quando la pensione non c'è o non basta, ci possono essere altri modi per ottenere un po' di liquidità. L'Istat calcola che il 90% della popolazione anziana è proprietaria della casa in cui vive. E proprio quella casa è, come dire, quel punto d'appoggio per ottenere un prestito vitalizio. Da qualche giorno in Italia c'è una legge che disciplina molto scrupolosamente l'utilizzo e la funzione di questo prestito, uno strumento che, se ben utilizzato, può aiutare molte persone in questa delicata fase della vita a risolvere molti problemi e anche quelli dei propri familiari. Se volete saperne qualcosa di più, ne parliamo tra poco nella pagina di Denari. Intanto mano alla cornetta, 800 24 00 24 per iniziare a farci le vostre domande. C'ho un mal di schiena che non fa dormire. E noi torniamo con il nostro dottor Stefano Respizzi per trovare la causa e soprattutto avere indicazioni per alleviare, se possibile, prevenire quella serie di dolori, dolorini, acciacchi che appesantiscono le nostre giornate rendendo i nostri movimenti difficili e faticosi. Dottor Respizzi, lei è pronto? Prontissimo. Guardi che adesso, oggi facciamo con lei una sorta di baratto. Beh. Perché lei dà dei consigli a noi, sì, e i nostri ascoltatori daranno consigli a lei, perché lei è ancora lontano dai 60 e comunque deve in qualche modo investire, no? Deve avere dei consigli, e quindi noi invitiamo i nostri ascoltatori a continuare a chiamare il nostro numero verde per darci un po' la loro ricetta. Bene. Ci stanno anche chiamando delle persone molto avanti negli scrivo anni. Scrivo anch'io comunque le ricette, perché qua è meglio prepararsi per tempo. Allora, dottor Respizzi, la prima indicazione che lei ha detto che ha bisogno di avere è se il dolore insorge durante o dopo il movimento o se si presenta indipendentemente dalle sollecitazioni. Ci spiega questa differenza? Quando una persona sente del dolore al mattino appena sveglio, quindi diciamo dopo una notte riposata, tranquilla, vuol dire che le sue articolazioni sono un pochino arrugginite, passatemi il termine. Vuol dire che queste articolazioni cominciano ad avere qualche problema di cartilagine, quindi di usura dell'articolazione, che è una cosa ineluttabile contro la quale non possiamo naturalmente inventarci se non la sostituzione dell'articolazione. E quindi anche il liquido che c'è dentro l'articolazione, che si chiama liquido sinoviale, ce n'è un po' meno e di conseguenza l'articolazione è un pochino più rigida. Perché è un po' più asciutta. È un po' più secca, bravo, un po' più usurata, un po' più secca. Quindi come se mancasse un po' lubrificante. Allora, durante la notte, quando si sta belli rilassati, tranquilli e si riposa, queste articolazioni stanno ferme tendenzialmente. Al mattino, quando le rimettiamo in movimento, si deve superare uno scoglio, che è quello di rimettere in circolazione un po' più di liquido sinoviale. E allora i primi momenti possono essere un pochino dolorosi. Ribadisco, si sta sempre parlando di qualcosa di benigno, non di qualcosa certo di grave, ma è semplicemente legato a una mancanza di lubrificazione, come invece c'è nelle persone molto più giovani, negli adolescenti ancora di più evidentemente. Quindi questo dolore qui, mattutino, esattamente, che compare esattamente al risveglio, non è pericoloso. è la conseguenza di quanto abbiamo detto fino adesso. Certo. Quindi non è una cosa pericolosa. Perché gli anni ci asciugano un po', diciamo la così. La nostra vita è un continuo disidratarsi. Ecco, diciamo così. Che i bambini hanno il 70% di acqua, gli anziani hanno il 40% di acqua, quindi ci rinsecchiamo progressivamente. Adesso detta così non è proprio bellina, però insomma rende bene l'idea. Rende benissimo. Dottor Respizzi, invece quando il dolore insorge durante il movimento? Durante il movimento o dopo il movimento è invece un campanello d'allarme un pochino più importante, perché vuol dire che una sollecitazione che magari consideriamo che è abbastanza normale o consueta, nel senso che è una passeggiata che uno è abituato a fare, sì. Se alla fine di questa passeggiata compare un dolore al ginocchio, per fare un esempio, allora vuol dire che c'è qualcosa nell'articolazione da cominciare a studiare un attimo, che potrebbe essere un'artrosi un pochino più avanzata. Mm. E, ad esempio, il dolore alle spalle, che sono molto comuni, no? A noi capita di trovare la signora che decide di lavare i vetri di casa e che il giorno dopo è in crisi nera, perché le compare un dolore violento alle articolazioni delle spalle. Ecco, questo è un indice di qualcosa che è un po' più avanti rispetto ai dolorini del mattino. E quindi questo è un tema invece che prevede almeno un controllo medico un pochino più accurato, diciamo. Lei ha parlato di spalle, dottor Respizzi. Di solito la spalla si fa sentire di notte e poi al mattino anche i movimenti più facili, come quelli di pettinarsi, infilarsi la giacca, diventano molto faticosi. Come mai la spalla si fa sentire la notte? Allora, la spalla si fa sentire di notte perché quando noi dormiamo la spalla, che è così mobile, l'articolazione più mobile che abbiamo, tende a essere protetta dai muscoli che le stanno attorno, il deltoide, sì. I muscoli della spalla, che tendono a sviluppare una contrattura, quasi un crampo, per tenerla ferma, perché il nostro organismo, il cervello inconsciamente, sa che lì c'è qualche problemino. E qual è il problemino? È che di solito c'è una sofferenza della cuffia dei rotatori. Questa cuffia dei rotatori non è altro che un tendine, sì. Che è dentro la spalla, che tiene insieme dei muscoli che ci permettono di tirare su il braccio, fare questo movimento banale di raggiungere qualcosa in alto sostanzialmente, no? Ecco, la cuffia dei rotatori, che è un tendine appunto, ha una caratteristica: negli over 65 nel 70% dei casi ha una lesione, quindi vuol dire che è praticamente la norma, no? Se il 70% delle persone ce l'hanno. È un gruppo muscolare e tendineo che va incontro a una degenerazione in moltissime persone e diventa quasi una cosa fisiologica. Questo però impedisce un movimento corretto verso l'alto. Allora, se una persona appunto si mette a lavare i vetri di casa presa da una foga di pulizia primaverile, il giorno dopo c'ha la spalla inchiodata, un male tremendo, non riesce più a muoverla. E quindi i vetri li lasciamo lavare a voi. Esattamente. Mi sembra che sia. Pazienza, però. Pazienza, ecco. Maschi, Paolo da Varese, buongiorno, vediamo che cosa ci racconta. Buongiorno. Lei lava i vetri, Paolo? No, non lavo i vetri. Come però. No, però arrampico, e forse quello che diceva il dottore, forse è riconducibile anche questo. Ma devo dire che a me capita ultimamente molto spesso che mi alzo al mattino e ho proprio un dolore abbastanza concentrato in mezzo alle scapole, cioè proprio ma abbastanza forte, poi dopo col passare delle ore mi passa. Diciamo che non è bello, insomma, tutte le mattine alzarsi così. Con però una spada in mezzo alle scapole. È proprio un dolore proprio abbastanza forte. Anche, vedi che ho preso. Ha diagnosticato. Come allora Paolo, vediamo se il dottor Respizzi, oltre a dare un'indicazione, ci aiuta anche a fare un po' di prevenzione. Certo. Ecco, è esattamente quello che dicevamo prima, il dolore in mezzo alle scapole, che è fastidioso, perché sembra che ci sia qualcosa, spesso viene anche vissuto dal paziente come qualcosa di più grave, perché lì sotto ci sono i polmoni e quindi spesso i pazienti dicono anche ma per mica qualcosa al polmone, no? Ecco, c'è anche questa enfasi che si può dare. Allora, nel caso del nostro ascoltatore che si arrampica, probabilmente lui sollecita molto la muscolatura posteriore, quella che tiene le scapole, le alucce come le chiamerei, al posto giusto, sì. Quei muscoli che ci sono lì. E quindi alla notte può succedere che questi muscoli si contraggono perché stanchi, perché affaticati, e che quindi questa reazione che lui riscontra al mattino non sia altra che la conseguenza di uno spasmo della muscolatura che si sviluppa durante la notte perché è ipersollecitata. Quindi bisogna trovare e capire qual è l'equilibrio tra la giusta sollecitazione, la passione per l'arrampicata e il non esagerare, quindi bisognerebbe approfondire con l'ascoltatore queste tematiche. Dottor Respizzi, chiudiamo con due consigli, due raccomandazioni per i sedentari e per gli sportivi. Sicuramente stare fermi quando abbiamo dolore no, ci viene, è naturale, però alla fine non è che produca buoni risultati, perché nel lungo periodo il muscolo, se non viene in qualche modo stimolato, poi la muscolatura si perde e quindi il danno è maggiore. Assolutamente. Dunque l'immobilità è da bandire assolutamente, anche nella persona molto anziana, 90 anni, 95 anni, ormai sono molto comuni questo tipo di età, sì. Anche queste persone si devono muovere, perché le nostre articolazioni, i nostri muscoli, come ha correttamente detto lei, devono essere sempre sollecitati, naturalmente meno rispetto a un giovane, certo. Ma devono sempre essere mossi. Faccio un esempio, noi abbiamo ovviamente qui ricoverati pazienti molto anziani che hanno avuto dei problemi, noi li mettiamo in piedi prima possibile, cerchiamo di farli muovere prima possibile, perché l'esercizio è una medicina, come dice sempre la mia amica Daniela Lucini. Che abbiamo avuto anche al Salone del Risparmio. Vedi, l'ha detto un po', perché non è venuto anche lei? Non mi ha invitato. Ma lei è sempre però lui era venuto l'anno scorso, un po' per uno. Allora dottor Respizzi, noi abbiamo le informazioni sul traffico, non so se lei si è reso conto che ormai c'è questo nuovo traffico Radio 24, che è una bellezza, viene voglia di andare in macchina. Allora sarà un'informazione utile da dare ad Umberto, magari poi dico perché. Quindi muoviamoci, non rimaniamo fermi, chi si ferma è perduto, e poi quando ci muoviamo il riscaldamento per lo sportivo è essenziale. Esatto, soprattutto nello sportivo anziano ancora di più, perché i muscoli sono meno elastici, perché le articolazioni sono meno elastiche, come abbiamo detto prima, quindi man mano che si va avanti con gli anni il riscaldamento deve crescere di intensità. Dottor Respizzi, allora faremo un altro Salone del Risparmio con lei sicuramente. Solo per lui, anzi andiamo a suggestioni, sarà felicissima. E intanto la ringraziamo, ma vogliamo leggere il messaggio. Guarda, perché questo oggi secondo me scala tutte le classifiche. Mio papà, ci racconta Umberto, oggi con la sua auto accompagna mamma a prendere la sua dal meccanico. Papà ha lavorato fino a 3 anni fa, lui ha 95 anni, mamma 88. Cuore e denari. Vecchio, diranno che sei vecchio, con tutta quella forza che c'è in te. Vecchio, quando non è finita. Una canzone straordinaria di Renato Zero, scritta da Mariella Nava, se non mi ricordo male. Credo che sia uno dei più bei testi mai scritti. Bellissima. Per quello che riguarda la canzone italiana, la terza età è una popolazione di grande interesse anche per il mondo della finanza, anche se magari questo aspetto non può piacerci particolarmente, però intanto gli anziani sono dei grandi risparmiatori, per fortuna, perché grazie anche a questo aspetto sono ancora una rete di protezione sociale, un grande ammortizzatore sociale, no? Altro che generazione sandwich, lo sono anche proprio dal punto di vista dei denari, Nicoletta, lo sappiamo bene. C'è anche però l'altra faccia della medaglia. Molti si trovano in difficoltà economiche. Proprio in questi giorni la CGIL ha denunciato che negli ultimi 4 anni i 5 milioni e mezzo di pensionati italiani hanno perso in media circa 1.800 euro l'anno a causa del blocco delle rivalutazioni delle pensioni che è stato in vigore tra il 2012 e il 2013. Molti di questi hanno però magari la proprietà immobiliare in cui risiedono, ma questa eppure essa spesso fonte di preoccupazione. Eh sì, è un costo. Per la tassazione, certo. Le spese che comporta oggi avere una proprietà, la manutenzione di una casa, le spese condominiali, metteteci tutto quello che sapete. Anche per tutte queste ragioni, negli ultimi anni si è fatto largo il prestito vitalizio ipotecario. È una particolare tipologia di finanziamento destinato agli over 65, ma in realtà oggi agli over 60, ce lo hanno già segnalato gli ascoltatori, hanno fatto subito prontamente la correzione all'informazione che abbiamo dato prima. proprietari di un immobile residenziale. L'Istat calcola che il 90% della popolazione anziana sia proprietaria della casa in cui vive. Allora perché torniamo oggi a parlare di questo punto specifico? Un po' perché abbiamo affrontato il tema degli anziani nella prima parte di Cuore Denari, ma anche perché da qualche giorno in Italia c'è una legge che disciplina molto scrupolosamente l'utilizzo e la funzione di questo prestito. Uno strumento che, se ben utilizzato, può aiutare molte persone in questa delicata fase della vita a risolvere molti problemi, i propri ma anche quelli dei familiari. Buongiorno e benvenuto a Claudio Pacella, amministratore delegato di 65 Plus, che è proprio una società specializzata nel segmento della terza età, nel servicing, sì, si dice così correttamente, per i prestiti vitalizi. Benvenuto naturalmente, grazie. Buongiorno. Buongiorno. E poi a tutti gli ascoltatori che in realtà hanno già cominciato a farne di domande, segnaliamo ovviamente, ricordiamo il numero verde, l'800 24 00 24, per continuare chiaramente se avete delle curiosità su tutto questo. Uno strumento, leggevo ieri, dottor Pacella, per sbloccare anche una ricchezza patrimoniale altrimenti non fruibile. Gli anziani che in Italia potrebbero rivolgersi a questo nuovo strumento finanziario sono quasi 10 milioni, nuovo per modo di dire, perché lo conoscevamo già, noi in passato a Salvadanaio ce ne siamo occupati anche molte volte. Ci spiega subito bene la novità che ha introdotto la legge il 19 marzo rispetto alla normativa preesistente? Certo. Allora, innanzitutto il prestito vitalizio è un finanziamento ipotecario, giusto per introdurre un attimo il tema, e ha la caratteristica di non avere delle rate di rimborso, quindi la sua e neanche una scadenza, quindi si chiama vitalizio per questo motivo. Le caratteristiche che sono state introdotte dal nuovo disegno di legge che è stato approvato sono innanzitutto un abbassamento dell'età da 65 a 60 anni. Questo proprio perché è stato giudicato uno strumento da poter far a cui far consentire l'accesso al numero più largo possibile di cittadini, quindi innanzitutto questo. Secondo, c'è stata una specifica fiscale, è stata confermata l'agevolazione fiscale, quindi l'utilizzo dell'imposta sostitutiva dello 0,25%, e questo è anche un elemento importante per favorirne e confermarne la diffusione, ma gli aspetti più importanti sono quelli legati alle tutele concessi sia alle banche che devono erogare, certo, sia agli anziani. Perché mi ricordo in passato, quando appunto in altre trasmissioni ci siamo occupati di questo argomento, in molti contestavano l'aspetto, ecco, che le banche mettono le mani sugli anziani. Chiaramente quando ci si trova in un frangente di difficoltà economica sono un soggetto debole, e ovviamente vederli un po' anche da questo punto di vista come le possibili prede da parte del mondo bancario non era molto piacevole. Poi insomma, per rimuovere anche tutte queste possibili contestazioni, ecco che la norma ha come disciplinato in maniera più stringente, come dicevo prima, certi aspetti. E soprattutto una norma che è stata promossa insieme e scritta insieme dalle associazioni dei consumatori e dall'associazione delle banche, quindi è nata proprio per tutelare entrambe le parti in un punto di equilibrio. Certo. Allora, andiamo proprio alla concretezza e al funzionamento del prestito vitalizio ipotecario, nato come al solito succede per tante altre cose nel mondo anglosassone, e poi pian piano appunto abbiamo recepito anche noi. Intanto, che importi si possono chiedere, dottor Pacella? Allora, gli importi variano in funzione del valore dell'immobile e in funzione dell'età. Al contrario degli altri finanziamenti, più una persona è anziana, più può chiedere soldi in proporzione al valore dell'immobile. La media che è stata osservata in Italia nella fase di avvio, che era iniziato il primo avvio nel 2007, è di 100.000 euro per ogni finanziamento, su un valore dell'immobile orientativamente di 300-400.000 euro, quindi il 30-35% del valore immobiliare. Questa è la media. Però si va da finanziamenti che partono da 30-35.000 euro fino a finanziamenti che cubono anche 200. Non è obbligatorio richiedere il valore massimo, assolutamente, anzi. Questo è molto importante. Infatti. Poi chiederà anche una cifra più contenuta. Assolutamente, certo. Così si pagano meno interessi. Esatto, ma poi spiegheremo anche chi deve pagare questi interessi e quando si rimborsa questo prestito. Però sono molto interessata. Perché non è ancora tempo per pensare a questi argomenti? Ma intanto mi porto avanti. Esatto, sai come com'è? Me con le scapole e la cuffia del rotatore, esatto, che mi ha dato qualche grattacapo ultimamente. Io però ti avevo fatto la diagnosi perfetta. Tu mi hai fatto non la diagnosi dirlo, e Di Pietro mi ha risolto il problema infilandomi un dito nella muscolatura praticamente in 2 secondi. Non so perché ho risolto un problema che andava avanti da 6 mesi. Detto questo, dottor Pacella, che adesso lei è al corrente di tutti i nostri problemi, gli anziani molto spesso per ottenere della liquidità utilizzano 2 strumenti diversi. C'è quello tradizionale, che è la cessione del quinto della pensione, e poi c'è anche la vendita della nuda proprietà della casa. Ecco, tra prestito vitalizio e nuda proprietà in particolar modo, che differenza c'è? C'è una differenza sostanziale innanzitutto dovuto al fatto che la nuda proprietà è una cessione della proprietà dell'immobile. Mentre nel finanziamento l'immobile è solo una garanzia, quindi rimane di proprietà dell'anziano e un domani passa in eredità ai suoi eredi, per la nuda proprietà questo viene completamente perso. Mm-hmm. Questo significa che la rivalutazione dell'immobile, e questo è particolarmente importante oggi perché siamo in un momento di svalutazione immobiliare, sì. Quindi la rivalutazione che può essere attesa nel periodo sarà goduta se uno vende la nuda proprietà dall'investitore. Mm. Nel caso del prestito vitalizio sarà goduta dagli eredi. Inoltre, quindi rimane in famiglia. Esattamente. Sì. La nuda proprietà è irreversibile, una volta che l'ho venduto non posso fare nient'altro. Il prestito vitalizio invece è una soluzione reversibile, perché uno può sempre decidere di rimborsarlo. Non ultimo, la nuda proprietà è anche un evento pubblico, devo mettere un cartello, devo dichiarare che vendo l'immobile, sì. Mentre invece il prestito vitalizio è uno strumento che uno può svolgere con i propri consulenti in banca. Quindi. Allora, ci sono tante domande che stanno arrivando, adesso gliele faremo tutte proprio a batteria a partire dalle 12.10, subito dopo il giornale radio, però le voglio chiedere, dottor Pacera, allora, molti ascoltatori, quando all'inizio abbiamo presentato il tema, abbiamo annunciato che lo avremmo trattato, e molti, ovviamente, gli interessati soprattutto, hanno già detto che avevano provato a farne richiesta quando ne parlavamo in passato, ma non, le banche non lo concedono. Allora, bisogna andare in banca a chiedere il prestito che ha il nome della vostra società, o a quale interlocutore bisogna rivolgersi, oppure ogni banca fa il suo prodotto specifico? Allora, oggi sul mercato esiste una banca che ha il prodotto, che è la banca Monte dei Paschi di Siena, che ha questo prodotto dal 2007, però la vera sostanza è che le banche aspettavano questa legge per poterlo introdurre. Allora, c'è un tempo fisiologico che le banche hanno bisogno per fare gli investimenti necessari, è l'attività che noi promuoviamo da tempo. Cuore e denari. È il vecchietto, dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto, per carità. Il vecchietto, dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto, per carità. Hanno invece molto chiaro dove e come stare oggi gli anziani, grandissima lucidità, grande attivismo, come abbiamo sentito nella prima parte della trasmissione, molto attivi anche dal punto di vista finanziario, molti di loro hanno una casa di proprietà e sfruttano naturalmente questa proprietà per risolvere anche qualche piccola crisi di liquidità che si può manifestare nel corso della propria vita, crisi propria ma anche dei familiari vicini. Allora, questa canzone di Domenico Modugni è scherzosa ma fa riflettere su tutto questo, un ruolo, quello degli anziani nella società, che negli ultimi anni è cambiato, e anche le scelte economiche delle famiglie riflettono questi cambiamenti. Noi siamo tornati a parlare del prestito ipotecario vitalizio, stiamo esplorando le esigenze della popolazione, siamo partiti dai risultati di questa indagine presentata stamattina dalla Cattolica e stiamo facendo un focus sugli over 60-65 che magari sono appunto proprietari di un immobile e hanno questa contestuale necessità di liquidità. Possono chiedere o la cessione del quinto della pensione, possono vendere la nuda proprietà della casa, possono anche chiedere questo prestito vitalizio ipotecario, oggi molto rigidamente disciplinato da una legge italiana che ha avuto il via libera definitivo il 19 marzo. Con noi ne parla Claudio Pacella, amministratore delegato di 65 Plus, che è un po' la società depositaria di tutta la conoscenza che c'è attorno a questo strumento. Tantissime le domande da parte vostra all'800 24 00 24, direi di dar loro subito la parola a Nicoletta. Cominciamo? Vuoi andare a Verona o a Como? Chi si era messo per primo in coda, cominciamo con Verona, dai. Dai, Edoardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Benvenuto. Grazie a voi, augurissima trasmissione. Ecco, il punto era... Io già sono già corrente, già un anno che c'è questa, come avete detto anche voi, questa legge, questa conoscenza, insomma, per gli over, eccetera. Il problema è che io ho già passato tre banche richiedendo con tanto di fotocopie, eccetera, tutta la documentazione, sono in possesso appunto di immobile e nessuno lo sta erogando. Questo è il punto. E infatti, allora, diciamo, Edoardo, come abbiamo già spiegato nella prima parte della trasmissione, a breve Le procedure sono sempre un po' complicate, dottor Pacella, però le banche dovrebbero rendere disponibile questa modalità di finanziare la popolazione anziana. Che interesse state riscontrando voi dal mondo bancario? Appunto, secondo lei saranno i colossi ad essere pronti per primi, a parte il caso di Monte dei Paschi che abbiamo già citato, o le piccole banche faranno la parte da leone? Ma entro la fine dell'anno probabilmente ci sarà almeno una grande banca che entra sul mercato e diverse banche medio grandi che entrano sul mercato. Probabilmente a partire da giugno si vederanno le prime offerte arrivare e entro fine dell'anno poi di seguito. Quindi Edoardo, se riesce ancora a tener duro per qualche mese, prossimamente troverà l'offerta commerciale un po' più ricca sul mercato. Andiamo a fare un esempio, dottor Pacella. Allora, ammettendo di avere una proprietà immobiliare, valore, non lo so, io faccio delle cifre a caso, 200.000 euro, ho bisogno di un prestito di 50.000 e lo voglio, chiedo alla banca appunto che me lo erichi secondo queste nuove modalità. Non ipotizziamo la cifra massima, insomma andiamo su una cifra ragionevole che già mi sembra anche piuttosto 50.000 alta. Euro sono già importanti. Ho la condizione anagrafica, 60 anni appunto, sappiamo che questo prestito non deve essere rimborsato a rate, ma verrà rimborsato quando il sottoscrittore del prestito verrà a mancare. Intanto che tassi vengono però applicati, perché poi si tratta di un prestito e quindi avrà degli oneri? Allora, per essere precisi, innanzitutto una... Se vuole un esempio più rotondo, no, lo faccio solo a lei. Per dire che a 60 anni, essendo molto giovani gli anziani, avranno una percentuale forse più bassa del 25%, che era l'esempio che faceva, perché il periodo di vita atteso è molto lungo. Ricordiamoci che abbiamo guadagnato 30 anni di speranza di vita. Quindi se a chiedere fosse stato un settantenne, avrebbe avuto la possibilità di chiedere una cifra più alta. Ottimo, esatto. Quindi già questo è un aspetto da chiarire. Esatto. Insomma. I tassi in questo momento sono alti, e storicamente sono stati alti, ma come tutte le attività, come tutti i prodotti che nascono e arrivano sul mercato per la prima volta. Io dico sempre un po' come il primo telefonino, costava di più, poi si è sviluppata la concorrenza ed è arrivato a costare di meno. Tutti i costi di sviluppo e tutti i costi di impostazione del prodotto all'inizio gravano sostanzialmente su quello che è il piccolo portafoglio che si genera. Quindi ci si aspetta che i tassi che saranno applicati appunto quando da giugno, nel corso di quest'anno, diverse banche arriveranno, caleranno progressivamente di 1%, 1.5% rispetto ai tassi che sono stati applicati storicamente. Non è però, come dire, un finanziamento che ha la stessa modalità di applicazione dei tassi di un mutuo immobiliare, anche se è legato alla proprietà di un immobile. Assolutamente sì, perché il ciclo finanziario per la banca è tendenzialmente più lungo, quindi anche i rischi che la banca deve andare a stimare per... viene erogato a tasso fisso questo finanziamento, quindi il rischio che ci possa essere un rialzo dei tassi è scontato anche nel prezzo, quindi sono dei tassi anche fisiologicamente più alti. Un po' più alti. Deve essere legato ad una necessità manifestata dall'anziano, dottor Pacella, nel senso che quando appunto una persona interessata va in banca, andrà in banca prossimamente a chiederlo, dovrà specificare che è un prestito vitalizio ipotecario per liquidità, anche per fronteggiare spese mediche, perché c'è anche questo aspetto molto spesso legato in questa fase della vita. No, il prestito vitalizio è un finanziamento di liquidità e come tale non deve essere specificato per cosa viene usato. In alcuni casi si specifica per cosa non viene usato per motivi tecnici legati alla fase di rimborso anticipato, che è sempre possibile perché l'anziano può sempre rimborsare anticipatamente. La cosa più interessante è forse per cosa viene usato normalmente, senza che venga dichiarato, e viene usato, come dicevate prima, in un terzo dei casi per aiutare i figli, e questo è significativo perché è un ponte generazionale tra genitori e figli. Nella metà dei casi è un finanziamento utilizzato per spese urgenti, correnti o straordinarie, ma talvolta anche semplicemente per integrare lo stile di vita. Se uno vuole tenersi aggiornato, per esempio, sul fronte di internet e delle nuove tecnologie, ha anche bisogno di poter finanziare, per esempio, queste attività. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Per il consolidamento dei debiti pregressi? È una delle, più o meno il 10% viene fatto per questo motivo, perché ci sono persone che arrivano a stipulare un mutuo e in età avanzata, quindi quando sono anziani hanno ancora una coda di mutuo e non riescono più a pagare le rate. In diversi casi ci è capitato di vedere il consolidamento attraverso il prestito vitalizio del mutuo, liberandosi così delle scadenze delle rate. Avete parlato sempre di proprietari, il proprietario, ma ci sono delle coppie che hanno l'appartamento in proprietà, quindi funziona anche per le coppie, immagino, deve essere uno dei due coniugi Assolutamente funziona anche per le coppie. In quel caso diciamo che è indipendente chi sia il proprietario, anche perché con l'Associazione Consumatori Labi è stato stilato un protocollo che abbiamo anche noi promosso per far sì che in caso di coppia venga comunque intestato a tutte e due, indipendentemente da chi è il proprietario. Quindi, per fare un esempio, marito proprietario dell'immobile, però viene intestato anche la moglie, questo garantisce alla moglie che dovesse mancare prima il marito, certo, lei non è erede in quel momento che deve restituire finanziamento, ma gode anche lei finché in vita di questo strumento. Allora, adesso abbiamo parlato un po' di tutti i vantaggi di questo strumento, ne abbiamo dipinto come un mondo tutto rosa. Quando si colora di, appunto, tonalità grigio, diverse, quando arriva il momento di rimborsare però questo prestito, allora lì magari cerchiamo di prevenire anche possibili conflittualità fra gli eredi che si dovranno incaricare anche della gestione di questo. Forse è bene, dottor Pacella, che quando sarà possibile farlo, questo prestito si andrà a chiedere. Forse è meglio condividere con i familiari questa scelta? Assolutamente sì, è una scelta comunque importante, è un prodotto che sembra roseo perché è nuovo, non è conosciuto, quindi sì, risolve molti problemi, non per questo è adatto a tutti, ci sono tante situazioni dove questo finanziamento magari non è la buona soluzione. E visto che comunque, nonostante l'immobile sia dell'anziano e quindi sia una sua proprietà che non deve necessariamente condividere finché vivo con i propri eredi, però è comunque buona pratica, visto che sono aspetti familiari che legano le generazioni, che ne parlino. Per esempio, noi abbiamo sempre suggerito che come minimo ci sia un obbligo, anche definito contrattualmente, a informare i figli e quelli che sono plausibilmente gli eredi delle scelte che si fanno. Chiarissimo. Allora, c'è un ascoltatore che dice: perché lo chiamate vitalizio? È un prestito a tutti gli effetti vitalizio, perché dura fino a che dura la vita perché del contraente. Perché è l'unico, ecco, di fatto, al di là delle forme tecniche con cui è realizzato, è l'unico finanziamento che non ha scadenza. Uno, se ha un fido in banca, se ha un mutuo, sono tutti finanziamenti a scadenza, esatto, e questo provocherebbe un rischio in capo all'anziano che a quella scadenza potrebbe non essere solvente, non essere in grado di rimborsare. Quindi si chiama vitalizio perché risolve il problema da questo punto di vista, certo, per tutta la vita. Allora abbiamo Giovanni che ci aspetta a Como. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Intanto eccoci che qua scaldi i motori anche Giovanna, così poi la mettiamo subito in fila. Giovanni e Giovanna. Giovanni, benvenuto. Benvenuto, grazie. Senta, un problema fondamentale, perché io ho esaminato la questione quando è uscita la prima volta la legge e mi sono informato. Sostanzialmente, sul discorso che viene finanziato all'incirca, io ho sempre un ritorno di voce, pazienza. Non è colpa nostra probabilmente. Niente. Giovanni, le stiamo credo facendo anche un test dell'udito. se ha gli acufeni o meno. Allora, sostanzialmente, il 50% di persone che vogliono avere questo finanziamento solo per mantenere il livello di qualità della propria vita, certo, visto anche che le pensioni continuano a diminuire, sostanzialmente io parto da un immobile che secondo me un minimo di 300.000 euro deve avere, non parliamo di cifre più basse, quindi su un finanziamento di 100.000 euro. Questi 100.000 euro vengono dati a disposizione dalla banca all'individuo, ad esempio oggi, ma l'individuo, se è solo per il tenore della vita, ne utilizzerà solo 10.000 quest'anno, 10.000 l'anno prossimo, 15.000 l'anno successivo, in base alle proprie esigenze di mantenere il livello di qualità della propria, sì, vita. Ne dispone però pienamente come crede, certo, non è che viene erogato a rate a sua volta. Però il problema di fondo, che penso che purtroppo non verrà superato con questa nuova legge, è che gli interessi verranno fatti pagare su tutti i 100.000 euro da oggi, a prescindere, certo, che i 90.000 che si tiene in banca, la banca stessa per un anno, due anni, eccetera, li utilizza la banca. Chiarissimo, e gli interessi Giovanni li guadagna lei. Tra l'altro mi diceva Pacella che invece addirittura al contrario l'erogazione può avvenire a rate. Esatto, c'è una modalità di erogazione che è per un periodo predefinito, per esempio 20 anni, allora la somma viene suddivisa su 20 anni, nel caso che faceva questo ascoltatore sarebbe sicuramente la soluzione migliore. Infatti. Allora l'importo viene erogato, nell'esempio che si faceva, 10.000 euro all'anno per 20 anni, scusate, in questo caso 50.000 euro all'anno per 20 anni, e questo fa sì che gli interessi siano pagati solo per quella quota che viene erogata, sì, e che si cumula ovviamente nel tempo. Quindi Giovanni deve andare a scandagliare ulteriormente nelle pieghe della nuova legge, perché trova anche la soluzione, speriamo che fa al caso suo. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Non vi dico neanche che messaggi arrivano al 349 238 6666. C'è ancora ma questo me lo ricordo, succedeva anche allora, un po' di sospetto attorno a questo strumento, eppure c'è anche largo interesse, dottor Pacella, questo è indiscutibile. Ma l'interesse è dovuto dalle esigenze degli anziani, e questo è oggettivo. Il sospetto, secondo me, è dovuto al fatto che è poco conosciuto. Considerate comunque che in Parlamento questa norma è stata approvata alla Camera con l'84% di voti favorevoli, al Senato ha avuto sostanzialmente quasi l'unanimità a parte alcune astensioni, è stata promossa dalle banche e dalle associazioni dei consumatori, quindi insomma, totalmente trasversale. No, ma poi posso dire, nessuno ha la pistola puntata alla tempia, appunto, e deve andare a chiedere. È un'opportunità, chi la vuole cogliere, anche un ascoltatore ci dice, ma come ipotecare la casa per migliorare lo stile di vita, ma siamo pazzi? E ogni famiglia ha delle dinamiche, delle esigenze, delle, no? Migliorare lo stile di vita non è sempre necessariamente andare alle Maldive o pagarsi un viaggio per fare chissà che cosa. A me piacerebbe però anche vivere dignitosamente, direi. Allora Daniele da Genova ci scrive: ma gli eredi devono poi chiudere il vitalizio in un'unica soluzione, altrimenti la banca esercita l'ipoteca sulla casa? Allora, intanto la banca interviene quando non ci sono eredi. Allora, gli eredi, quando, come qualsiasi finanziamento, anche se uno fa un mutuo e in mezzo all'ammortamento il mutuo viene a mancare, come succede per qualsiasi prodotto, gli eredi ereditano il patrimonio e i debiti. Onori e oneri. Quindi devono rimborsare il finanziamento. La cosa particolare è che il finanziamento è sempre calcolato per far sì che il valore dell'immobile sia sempre più che capiente rispetto al valore del debito. Questo cosa significa? Che l'erede, contrariamente agli altri casi, ha l'interesse a vendere l'immobile per potersi tenere la propria quota di eredità e rimborsare la banca. Esatto, cioè perché qua la percezione, il messaggio che passa è che una volta che il contraente viene a mancare, gli eredi devono pagare questo debito prendendo soldi loro. Pagano il debito vendendo la casa. Di fatto non è che sono stati indebitati, è che ereditano un po' meno di eredità, cioè un po' meno di patrimonio, ed ereditano in particolare quella parte di patrimonio che l'anziano ha goduto in vita. Certo. O magari hanno goduto loro, perché potrebbe anche essere che sia successo questo. Che sia, come si dice. Allora, no, tra l'altro invece se non ci sono eredi, la banca come interviene? Se non ci sono eredi, viene nominato un curatore testamentario, quindi è come se l'erede fosse lo Stato, e poi alla fine di fatto succede così, e quindi un erede c'è sempre, che poi sia un familiare, un erede testamentario o il curatore che cura l'eredità per conto dello Stato, c'è sempre. Allora, noi abbiamo detto a Giovanna, preparati, scalda i motori. Ma arroventata. Giovanna, buongiorno, dalla provincia di Modena. Buongiorno ragazze. Siamo un po' monelle, Giovanna, cosa vuole fare? Va. Buongiorno ragazze, sono contenta di parlare finalmente con voi, siete superbe. Grazie. E anche questa oggi la portiamo a casa, come dice sempre Nicoletta. Sì. Portate a casa e tenetene conto. Grazie Giovanna, ci dica tutto. Ascoltate, io avevo tre domande, ad una avete già risposto perché io sono proprietaria al 50% dell'immobile con mio marito, quindi avete già risposto. Ottimo. E le altre due erano, se una volta ottenuto il prestito ipotecario si possono effettuare delle ristrutturazioni? Questa è una. L'altra è, se nel corso di questo prestito ipotecario si decidesse, i proprietari decidessero di vendere l'immobile, è possibile farlo? O è vincolato? Seguendo naturalmente. Brava Giovanna. Bravissima Giovanna, tre domande veramente, due perché la prima abbiamo già dato una risposta, veramente super intelligenti. Allora, prestito ipotecario e ristrutturazione dell'abitazione, vale la pena chiedere un prestito per ristrutturazione o chiediamo il prestito ipotecario e ristrutturiamo? Allora, se l'importo è piccolo, tipicamente può stare negli importi della cessione del quinto della pensione, per esempio, può convenire usare quella forma che può essere assolutamente usata per questi scopi. Tenete presente che la casa può essere ristrutturata perché guadagna di valore, quindi la banca è solo contenta. In alcuni casi non è consentito finalizzare il prestito vitalizio a quello scopo perché è una causa esclusa, perché rientra nella Bersani, perché sennò non si potrebbe estinguere. Ma il contraente deve dirlo se appunto chiede. No, su una è un finanziamento di liquidità. Io dico solo, può farlo in qualsiasi momento, può farlo un mese dopo, tre mesi dopo. Ecco. Attingendo le sue risorse che siano anche state integrate al prestito vitalizio. Però non è che deve andare in banca, di cui ci devo ristrutturare, magari vuole ottenere una condizione migliore. No, è la condizione del prestito vitalizio, punto. Base, è uno strumento di liquidità, confermo. Perfetto. il come se viene la vendita della casa. Ecco, la vendita. Allora, la casa può essere venduta, l'unica cosa è che c'è la garanzia. Questo capita frequentemente quando ci sono degli anziani che vanno a vivere coi figli, vendono la casa e vanno a vivere coi figli. Alcuni, anziché andare a vivere coi figli, vanno in casa di cura, per esempio, in maniera definitiva, quindi vendono l'immobile. Si può fare, solo che in quel momento si rimborsa il finanziamento e si tiene la differenza. Certo. Allora, noi abbiamo terminato. Mi rendo conto che a un certo punto ho parlato di Euvis un'altra volta, invece siete 65 plus, esatto. Euvis non c'è più, però insomma tutta l'esperienza di quella società è stata raccolta in questa nuova. Che adesso dovrebbe essere 60 plus. Abbiamo deciso di tenerlo 65. Ecco. Sì, andate allora a vedere tutte le informazioni sul sito, lo metteremo anche sul nostro sito di Radio 24 e sui nostri social network. Dottor Pacella, che interrogazione pure lei che abbiamo fatto stamattina. Quando volete. Però era pronto. Promosso. Che... A domani. A domani. Cuore e denari.